9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 4 maggio, domani il 5 maggio, che per i più è ricordata ai fusi come Mobile. No, domani il 5 maggio non è solo la morte di Napoleone, così rievocata Alessandro Manzoni. Domani è l'inizio ufficiale delle celebrazioni per il 150esimo dell'Unità d'Italia. E a questo 150esimo dell'Unità d'Italia arriviamo, come nostro costume nazionale, belli divisi, con una bella batteria di polemiche, tanto per non perdere l'abitudine. E il comitato nazionale incaricato di studiare e di dare dignità culturale, politica, scientifica alle celebrazioni, lo sapete, ha avuto le sue belle polemiche. L'ex presidente Carlo Azeglio Ciampi, sia pure per dichiarati motivi di salute, malgrado una telefonata di Berlusconi, ha lasciato quella commissione, dopodiché altri membri come il professor Conso, il professor Maraini, il professor Zagrebelsky lo hanno seguito, e in questi ultimi giorni le polemiche si sono riaccese, perché sentiamo domenica scorsa alla trasmissione di Lucia Annunziata, che va in onda la domenica, in mezz'ora, che cosa ha detto il ministro Calderoli. Dichiaro subito che io non sono scandalizzato, ma sentiamo le sue parole. La miglior risposta al festeggiamento dei 150 anni dell'Unità d'Italia sarà attraverso il federalismo. So che lei si arrabbia, ma io continuo a ripeterlo. Noi realizzeremo l'Unità d'Italia, cioè è inutile parlare di Unità d'Italia come un totem, lasciandolo fine a se stesso, e chi lavorerà per realizzare l'unità del paese allora sarà uno che veramente lo festeggia, questo simbolo, questo valore, sì, che c'è scritto in Costituzione ma non c'è nella pratica. Naturalmente, alla suscitare le polemiche credo non siano stati tanto questi passaggi quanto un'aggiunta che non avete trovato nel brano che avevamo riproposto, in cui il ministro ha detto: non so se la Lega ci sarà. Vi aggiorno brevissimamente prima di presentarvi gli ospiti. Trovate ulteriori reazioni a queste parole di Calderoli oggi, per esempio nell'intervista sulla Stampa di Gianfranco Fini, che attacca con una certa durezza le posizioni della Lega e ne fa una questione politica, ribadendo le accuse già annunciate nel suo intervento alla direzione del PDL 2 settimane fa, quando ha accusato il partito e Berlusconi di essersi esclusivamente limitati al comitato messo in piedi dal governo, ma di non aver intrapreso alcuna iniziativa del PDL per dare un senso come forza politica al 150esimo dell'Unità d'Italia, al suo valore storico e all'importanza che il PDL in quanto tale rispetto alla posizione della Lega annette invece al valore della patria e dell'unità. Trovate poi le parole oggi di Umberto Bossi su Repubblica. Umberto Bossi ribadisce che è una ricorrenza inutile, ci vado solo se me lo chiede il presidente, ma starò a lavorare, e conferma: è il federalismo il compimento concreto dell'Unità d'Italia, senza il federalismo il nord continua a spendere troppo e il sud a sprecare anche i suoi soldi, dice. Poi ancora sui giornali di oggi le parole pronunciate ieri da Naldo Bagnasco, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana: l'Unità d'Italia è un tesoro nel cuore di tutti, quindi vescovi critici sugli attacchi della Lega, critici non solo a formazioni politiche e la CEI, critica anche molto duramente, ieri un po' a sorpresa addirittura per i toni, dopo le aperture verso la Lega che aveva avuto il presidente della Fondazione Italia Futura, cioè Luca Cordero di Montezemolo. Ieri una nota, un articolo di due autorevoli esponenti della Fondazione guidata da Luca Cordero di Montezemolo, e cioè Calenda, il professor Calenda e Andrea Romano, che dicono: è venuto il momento di mettere in frigorifero la benevolenza con cui si è guardato tradizionalmente alla Lega, perché la Lega ha un disegno politico che mira a impadronirsi del nord e a frantumare l'unità italiana. Quindi insomma, polemiche molto molto molto molto accese. Altre polemiche oggi, perché un assessore, l'assessore ai servizi sociali del comune di Mannate, questo l'ho trovato sul Corriere della Sera, Barbara Mingardi, ha dichiarato che il tricolore lei non lo mette neanche in bagno, però questo secondo me modestamente fa più parte del colore che del nocciolo politico, di cui mi sono sforzato di ricordarvi alcuni di questi elementi. Ma come la pensa la gente comune, come la pensate voi? Ha davvero così tanto senso, con tutti i problemi che ci sono, dividersi così duramente, così aspramente per una celebrazione? Non lo so, io vedo che già nei primi messaggi che ricevo gli inviti prevalenti sono quelli a essere concreti invece che a sprecare tante parole, però... È chiaro che un paese come il nostro, che in un'unità che non è ancora riuscita a superare tutti i suoi problemi, ha molti motivi di divisione polemica, non bisogna stupirsi se questi siano i toni, a dire la verità. Ora, in tutto questo, sentiamo un secondo come la pensa chi, innanzitutto, vi propongo questa riflessione, non protesta solo a nome del Nord, ma protesta in questi stessi giorni anche a nome del Sud. Cioè, ora abbiamo con noi il presidente del movimento meridionalista Insorgenza Civile, Nando Dicè. Buongiorno Dicè. Buongiorno. Che nei prossimi giorni, l'8 maggio se non sbaglio, anima a Torino e al Forte di Fenestrelle una manifestazione che apparentemente sembra lontana da queste polemiche, ma in realtà è molto polemica verso l'unità. Perché? Di che manifestazione si tratta, Dicè? Noi protestiamo contro uno sperpero di denaro pubblico, nel senso che questo Stato, anche con i soldi dei meridionali, finanzia un museo, il Museo Lombrosiano, tanto per ricordarlo chi è, Lombroso è quello che ha teorizzato l'inferiorità genetica dei meridionali e la loro criminalità atavica. Quindi per noi festeggiare... Cesare Lombroso, grande scienziato del positivismo torinese, la cui testa in formalina sta ancora nell'omonimo museo a lui dedicato, dove gli studenti come me andavano a studiare. Perfetto, è un museo dedicato a uno scienziato, come lo chiama lei, io sono meridionale, quindi non posso pensare che uno che ha detto dei miei avi e della mia gente che eravamo dei criminali atavici possa avere da questo Stato, che ricordiamolo ad oggi è ancora lo Stato di tutti gli italiani, possa spendere dei soldi questo Stato per commemorare uno che teorizzava l'inferiorità. Però dice, che... posso dire, il positivismo sì. È superato, stiamo parlando dello stesso Lombroso anche... che faceva antropologia criminale dicendo che chi aveva la fossetta occipitale era un delinquente abituale. Anche le teorie naziste sono superate. Non apriranno un museo a Mengele. Ma al di là di Lombroso, voi fate anche una manifestazione sotto questo forte di Fenestrelle, perché? Perché Fenestrelle è stato il primo lager europeo. Nessuno lo ricorda, tutti ricordano i lager nazisti, i lager comunisti, ma in Europa il primo lager è stato fatto dai piemontesi, dove portavano i meridionali che resistevano come eroi all'invasione piemontese, e quegli uomini chiamati e definiti briganti in maniera despregiativa in realtà forse avevano capito tutto, avevano capito che forse lo Stato italiano avrebbe portato al sud la disoccupazione che prima non c'è mai stata, avrebbe portato al sud l'emigrazione che al sud non c'era mai stata, avrebbe portato al sud quella povertà generalizzata che prima non c'era mai stata, o cioè se c'era non era al di sopra degli standard europei, e soprattutto avrebbe portato al sud un lassismo politico che ha portato tutta la classe politica meridionale a diventare tale solo attraverso il filtro dei partiti nazionali, e quindi abbandonare la politica dice, meridionale. Si lascia interrompere, perché lei deve anche tentare di evitare che chi ascolta a casa la prenda, per così dire, per un legittimista borbonico un po' fuori dal tempo. Allora, ma io non sono legittimista borbonico. Mi faccia chiedere, sì. Cioè, siccome c'è un filone della storiografia che negli ultimi anni ha ripreso piede, quello delle insorgenze, non a caso voi vi chiamate Movimento Meridionalista Insorgenza Civile, facciamo un nome, per esempio la professoressa Angela Pellicciari, che per questa rilettura del Risorgimento, in cui si vanno a vedere tutti i fenomeni non qualificati come brigantaggio, quelli del Sud, ma tentando di studiarli per quello che è la tradizione cattolica, la tradizione legittimista, rispetto invece a un'unità che era avvenuta da un momento all'altro spezzando tradizioni. Quindi c'è tutto un filone storiografico, volevo richiamarlo, perché non si tratta di dire siamo con la regina sugli spalti di Gaeta contro gli odiati Sabaudi, ecco, perché sennò dà un'immagine un po' singolare, per così dire. No? Sì, no, guardi, c'è anche, diciamo, non solo la Pellicciari, cioè io potrei aggiungere Lorenzo Del Bona, sì, certamente, aprile, certamente. C'è tutto un filone, come diceva lei, di revisionismo storico, ma io direi di verità, perché quelli sono numeri, no? Vabbè, cioè, questo è un punto di vista, ecco. Per no, ma più che un punto di vista, basta guardare i dati che ci dicono che al sud c'era più lavoro industriale che agricolo rispetto al nord. Il ragionamento è quello, è che il tempo al sud si è fermato con l'Unità d'Italia e oggi, nel 2010, il sud, diciamo, paga il dramma di un'unità che ha favorito tutto, per tutti i 150 anni, il nord e non il sud. Dice, posso farle una domanda? Se è così e c'è stata una spoliazione storica, di là della controversia sui dati, la famosa industrializzazione a cui sarebbe posto termine con l'Unità d'Italia, ma se questo è il punto di partenza, domanda, sì, non dovrebbe avere ragione Bossi per cui col federalismo i meridionali pensano di più anche a se stessi invece che stare nelle mani degli odiati del nord? No. Ma c'è un particolare, come il sud non decise di costituire l'Italia unita, così il sud non sta decidendo non sta decidendo il federalismo. Questo federalismo all'interno di uno Stato-nazione è un'invenzione tutta italiana, che è il contentino che i politicanti, i partiti nazionali stanno dando a Bossi, che per noi non è altro che il Mastella del Nord, dare al Nord ulteriori facilitazioni. E ci sono, continuiamo a dire i dati di oggi, perché quando sentiamo in televisione queste cifre enorme che vengono date al Sud, tipo i fondi FAS, sono 100 miliardi di euro che la gente si impressiona, si dimenticano di dire che sono spalmati su 8-9 anni, mentre nello stesso periodo, dal 2000 al 2002, il Nord ha avuto 98 milioni di euro. Allora, il ragionamento è sempre questo. Guardi che sta parlando di miliardi, milioni, miliardi, sta facendo confusione. Euro, sì, ecco, miliardi di euro. Allora, queste truffe psicologiche che si ripercuotono nei confronti del Sud continuano oggi. Va bene, dice, la sospendo perché ci abbiamo altri ospiti. Le dico solo, che adesso non lo dice Giannino, però insomma, la Germania in vent'anni di unificazione rispetto a un est della Germania, l'ex comunista, che aveva un gap superiore nei confronti del reddito medio pro capite del Nord-Est tedesco a quello del gap storico tra sud e nord, l'ha colmato a quasi il 70% in 20 anni. Noi in 150 anni abbiamo un bilancio, io richiamo sempre un numero, nel 1951, cioè purtroppo oramai 60 anni fa, il contributo delle regioni del sud italiano al PIL nazionale era il 23,8%, esattamente come è stato nel 2009. Ci si può dividere se si crede alla tesi della spoliazione, ma nel frattempo lo Svimez nel suo rapporto del 2009 ci dice che in questi 60 anni, non per spese ordinarie avvenute al sud da parte dello Stato, ma tra fondi ordinari e straordinari devoluti prima con la cassa, poi con la gestione successiva delle politiche di coesione e di competenza nazionale ed europea per la parte cofinanziata, abbiamo a valori correnti di oggi, cioè rivalutati, destinato allo sviluppo aggiuntivo del sud la bellezza di 389 miliardi di euro a oggi, per avere lo stesso risultato di 60 anni fa. E quindi questo è un bilancio che comunque ci deve interrogare. Allora, sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti politici. Io ringrazio Dicè, auguro che alla sua manifestazione a Torino ci siano innanzitutto nessuna intemperanza, e sotto il forte di Finestrelle penso alla testa del professor Lombroso, che spesso guardavo visitando il museo, e credo che sia incredulo nell'aldilà nel vedere di essere identificato ancora come, giustamente per noi post-positivisti, quello era razzismo antropologico, c'è poco da fare. Detto questo, i nostri due ospiti politici di oggi sono appunto Clemente Mastella, che mi dispiace essere stato testé evocato dal DC con una nomea, ma adesso gli diamo la parola. Buongiorno onorevole Mastella, è deputato europeo del PDL, e Matteo Salvini, deputato europeo della Lega Nord. Buongiorno Salvini. Eccoci. Salvini, aspettiamo un secondo ancora come la pensa Mastella, che è stato chiamato in causa come il Bossi del Nord dall'intransigente meridionalista antinordista Nando Dicè. Allora Mastella, al di là di tutto, queste polemiche politiche sull'unità lei come le giudica? C'è ancora davvero un valore così divisivo, o invece poi il federalismo è una questione di una riforma da attuare, discuterne nei numeri, vedere, ma in realtà col valore dell'unità c'entra assai poco? Lei che pensa? Ma guardi, la mia opinione è molto semplice: più siamo in grado di aver memoria comune e condivisa dell'unità nazionale, di quella che si è realizzata, e più siamo in grado di condividere un futuro che è anche diverso, nel quale ci sta anche il federalismo fiscale o il federalismo di natura istituzionale. Se viceversa c'è la divisione su quello che è accaduto, ritenendo che tutto questo appartenga ad un elemento di retorica e non una forma complementare, aver costruito diciamo tra tensioni, tra momenti difficili, all'insegna, come è capitato nel 48, di un patto costituzionale in cui si è garantita questa unità d'Italia, evidentemente tutto diventa più difficile. Cioè, io ho sempre riconosciuto diciamo la legittimità degli accenti della Lega per quanto riguarda l'area del nord, la stessa cosa deve essere fatto all'interno del Mezzogiorno, senza contrapposizioni di natura geografiche, però all'insegna, diciamo, di questa costruzione unitaria dove ci sono garanzie per tutti, dove evidentemente il sud ha il dovere di muoversi e di mobilitarsi secondo una logica diversa da quella del passato, e il nord ha il dovere della comprensione da questo punto di vista. Bene. E secondo me questo è l'unico modo per vivere l'unità. Bene, un secondo solo, la interrompo, scusi, solo perché lei poi resta con noi, mentre poi l'onorevole Salvini ci deve lasciare tra pochissimi minuti, alle 9.30, perché poi c'è un impegno. Allora chiedo all'onorevole Salvini, a me questa risposta di Mastella in realtà non mi sembra né polemica, mi sembra una maniera abbastanza ragionevole e corretta, come è ragionevole, l'ho già detto all'inizio, che la Lega dica sì, però insomma pensiamo al federalismo. Detto questo, è identitario comunque accettare anche queste polemiche politiche e quindi non stupirsene, o c'è qualche cosa, qualche resipiscenza antileghista forse che si deve anche al risultato regionale? Lei che impressione ha? Ma ascoltavo incuriosito la teoria secondo la quale è il nord che ha sfogliato il sud e si arricchisce alle spalle del sud da 150 anni a questa parte, ma io chiedo a chi si sta ascoltando in questo momento se oggi l'Italia è unita, se in questo martedì mattina l'Italia è unita, se un ospedale a Reggio Calabria funziona come un ospedale a Milano, se una scuola a Catanzaro funziona come una scuola a Milano, se la malavita organizzata ha lo stesso potere, lo stesso controllo del territorio a Napoli, a Verona o a Torino. Evidentemente no, e forse per assurdo un partito che si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania sta cercando di tenere insieme questo paese che è bellissimo ma è diversissimo, e negarlo sarebbe folle. E dire che non è in cima ai nostri pensieri avvolgersi nel tricolore e festeggiare spendendo qualche milione di euro l'anno prossimo qualcosa per cui c'è poco da festeggiare in molte zone del paese, preferiamo lavorare piuttosto che festeggiare, in questo momento non penso sia un sacrilegio dirlo. Lei pensa, leggendo a note come quelle dei Bagnasco di ieri, della CEI, alle parole del Capo dello Stato, alle parole di Fini, quindi posizioni che vengono da opinioni istituzionalmente, politicamente, culturalmente diverse quando si parla della CEI, pensa che per la Lega la maniera migliore di rispondere quale sia? Lavorare, rispondere con i fatti, rendere più vicino al paese. Io sono stato a fare campagna elettorale in Trentino nello scorso fine settimana, e quello che accade a Rovereto non è quello che accade a Campobasso, quindi la miglior risposta della Lega è magari mettere un tricolore in meno fuori da un comune, ma creare un posto di lavoro in più sia a Rovereto che a Campobasso. Io penso che quelli che si nascondono dietro le celebrazioni, le feste, gli inni, le bandiere, è perché non hanno altro modo per dire che il paese è unito. Il paese oggi non è assolutamente unito. Quindi la miglior risposta della Lega ai cardinali e agli imbandierati è quella di rispondere come sta facendo Maroni, ad esempio, di cercare di ripulire un paese che in alcune zone è in mano alla malavita, come 150 anni fa, né più né meno. Io ringrazio l'onorevole Salvini, invito tutti coloro che sono in ascolto o comunque la pensino a tentare di prendere le posizioni di ciascuno al minimo comun denominatore, al netto delle polemiche. Io ripeto, non considero scandaloso che la Lega abbia questa posizione, perché i numeri dicono effettivamente che la classe politica nel suo complesso, la classe dirigente italiana, ha poco vanto da fare di quello che in 150 anni ha ottenuto in concreto per rendere meno grave il divario che continua a esserci nel nostro paese. Questa è la mia personalissima opinione. 9.32, torniamo dallo studio dopo le polemiche a seguito delle posizioni di Calderoli. Avete sentito, c'è anche chi dal sud, in nome del filone del revisionismo, del storiografico, del risorgimento, protesta, e protesta addirittura contro i lager che sarebbero stati per primi piemontesi a fare in Europa. Dico addirittura, perché insomma sono pur sempre piemontese, quindi È chiaro che quando si tratta di unificazioni che avvengono anche per fatti d'arme, non si può pensare che le tradizioni legittimiste precedenti possano con tanta facilità aderire poi a un filone invece di ricomposizione unitaria di quello che è avvenuto. Però è anche da dirsi il fatto che i Mille, Garibaldi, Mazzini, insomma, il fenomeno altoborghese, per carità minoritario, che poi porta all'unità d'Italia è qualcosa diverso da una semplice guerra di annessione, bandiera al vento e cannoni fiammeggianti alla Napoleone. Cioè, insomma, non è che i Savoia fossero proprio la stessa cosa della Francia rivoluzionaria che mette sotto il tallone l'intera Europa, anche se naturalmente poi la corona se la mettono in capo. Stiamo parlando di questo, abbiamo come ospite ancora l'onorevole Mastella e ci ha raggiunto il professor Giovanni Belardelli, che insegna storia del pensiero politico contemporaneo all'Università di Perugia. Ha appena scritto un bellissimo libro, secondo me, dedicato a Mazzini. Buongiorno, professor Belardelli. Buongiorno. Ecco, sentiamo un po' come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Salvatore da Roma. Prego, Salvatore, come la pensa? Sì, buongiorno. Senta, io ripulisco le espressioni della Lega dagli aspetti un po' beceri e razzisti e vado alla sostanza della cosa. L'Italia non è divisa, l'Italia è diversa. È inutile che ci... Io sono meridionale, quindi vivo a Roma, che è una via di mezzo tra il nord e il sud, ma quel signore che parlava di Lombroso, che parlava della spoliazione da parte dei piemontesi, insomma, vive in un'altra epoca, vive altri sogni. Il leghista è becero perché deve tirar fuori il voto del suo elettorato, quello un po' ignorante, quello un po' così, però in fondo dice cose giuste. L'Italia Salvatore, io la interrompo per dire che non lo so se sia così becero o ignorante, perché a vedere oramai le proporzioni del voto nel nord dopo tanti anni, il cliché del leghista rozzo e becero nella parte dell'Italia che produce più reddito non direi che sia molto più... Io adesso rispetto la sua opinione come quella di tutti, però vi invito a riflettere davvero se questa rozzezza, beceraggine sia il criterio con cui guardare la Lega. Molti pensano che, adesso lo dico perché sono diventato leghista, sentono qui alcuni messaggi che dicono il mio nuovo cavallo di battaglia. No, io dico che è un fenomeno che da più di 20 anni ha preso piede ed è diventato così rilevante da diventare il punto di riferimento nella parte d'Italia che ha una certa importanza. Non per questo dico che non ha dei caratteri che potete giudicare come volete, ma riservarlo solo a un estremismo di colore, secondo me vi priva di criteri di lettura un pochino più profondi, ma ripeto, rispetto alle opinioni di ciascuno. Sentiamo Luciano da Verona, come la pensa lei? Pronto? Dica. Si sente? Sì, benissimo. Io sono un becero rozzo del nord che di fronte ai 150 anni, più che festeggiamenti, io vorrei fare dei bilanci. Sì. Le dico solo questo, quando vado all'estero mi domandano di dove sei, ecco, io dico sono italiano del nord, perché cerco sempre di identificarmi come del nord, in quanto io mi vergogno del sud Italia come visione all'estero, perché c'è la mafia, l'andrangheta, non funziona niente, tutto ciò che viene dal sud è da vedere, è da leggere. Noi produciamo al nord, facciamo tante cose, abbiamo tanti problemi, ma li affrontiamo. Il sud è un'altra nazione, il sud è più legato al Nord Africa che non è quello che tutti hanno paura di dire, ma che tutti pensano. Siamo due nazioni diverse. Aia, grazie Luciano, però sono parole dure, eh? Io non so se tutti la pensino così, però sono parole dure. Allora, io ho interrotto prima l'onorevole Mastella. L'onorevole Mastella sa per lunga impegno politico che una parte, non dico queste espressioni così aspre, ma una parte di quello che viene dando voce agli ascoltatori del Nord è la parte di un vissuto e di un pensiero profondo e condiviso, rispetto al quale, onorevole Mastella, che cosa il Sud, chi fa politica per il Sud, chi si batte per un'idea del Sud non assistenziale, e lo chiedo a lei apposta, perché molti poi associano automaticamente il suo nome a quell'idea del Sud. Io no, va bene? E allora glielo chiedo a lei. Quel tipo di Sud che non vuole essere assistenziale, come può rispondere a opinioni che così diffuse sono ancora, forse più di prima, tra gli italiani? Lei che pensa? Ma guardi, accettando la sfida, evidentemente, nella integrazione, ma conservando quello che è stato il dato e la ricomposizione che si è verificata per il nostro paese, io devo dire all'ascoltatore del Nord che laddove andasse in giro per il mondo e dicessi io sono italiano del Nord, e ritenendo che noi siamo un'altra nazione, a parte il fatto bisogna stare molto attenti alla devanazione dello Stato, ma questi sono concetti già di natura storiografica, sarebbe una nazione anche quella del Nord, con tutto quanto il suo valore, la sua ricchezza, una nazione dimezzata. Cioè il problema è stabilire se si può convivere, se questa diversità può essere utilizzata come una forma di, diciamo, di ricchezza da questo punto di vista. Ora è ovvio che per realizzare ricchezza c'è bisogno che ognuno promuova le proprie azioni in maniera coordinata rispetto agli altri. Certo, ci può essere una lentezza, ma il coordinamento deve avvenire, c'è chi avanza di più e chi avanza un po' di meno. Ma insomma non è che siamo dei down che devono essere messi da parte, credo dal punto di vista educativo, rispetto a coloro i quali hanno, diciamo, delle difficoltà, c'è bisogno di eliminare queste difficoltà, di ricomprenderle, di capirle, di agevolare il percorso. La stessa cosa lo deve rifare il Sud. Vede, c'è stata a volte un'inquietudine crescente, si è tentato dal punto di vista anche mediatico di soffocare la classe dirigente del Mezzogiorno. In realtà la classe dirigente del Sud, pur con i suoi scompensi, diciamo a volte delegittimata sul piano di un'idea che faceva apparire claudicante questa idea meridionale, in realtà era un po' più avanti del popolo meridionale, perché difendeva che cosa? Difendeva le difficoltà, difendeva una coesione sociale che non c'è, difendeva una diciamo un mondo che era a volte desertificato. Al nord chi fa politica dietro interessi, al sud quali interessi? È la debolezza da questo punto di vista. Allora vorrei dire anche, mi dispiace, il mio amico Salvini si è andato via, non vedo qual è la ragione per cui non si tratta soltanto di festeggiare, è quello di rievocare, di tener conto, insomma, che alcune cose sono verificate senza fare da contrappunti gli uni rispetto agli altri, e di poter promuovere assieme in complicità questa idea che appartiene al passato, ma che non è un rozzo passato, ma che va scandito secondo elementi, diciamo, legati all'idea un po' di un futuro completamente diverso, in cui però anche il Sud non sia mandato al diavolo, come mi pare di sentire da parte di alcuni, ma si chiede al Sud di fare la sua parte. Se il Sud è in grado di fare la sua parte, bene, se il Sud è in grado di farlo, faremo donazioni, perché a volte, insomma, mi voglio di dire, ma se non volete, io sono tra quelli che sono comprensivo di queste ragioni del Nord, ma chiedo che ci sia analoga comprensione delle ragioni del Sud, richiedendo a noi stessi, al Sud, di fare di più di quello che non si sia fatto fino ad ora. Però se si vogliono due nazioni lo si dica, cioè sembra quasi che la secessione, che avvenga in maniera rituale diversa rispetto al passato. A questo punto facciamo due nazioni, lo dico dal punto di vista, come dire, forte, facciamo due nazioni e pazienza. Io spero che non sia così. Io mi penso piace, che... mi piace, voglio chiudere, scusi, sì, mi piace con questo, che Bossi, che è sempre quello che ha un'intelligenza politica molto arguta, che cosa ha detto? Ha detto, beh, io non partecipo a questa manifestazione, ma se lo chiede il capo dello Stato. Vorrei dire, ma il capo dello Stato è l'unità nazionale, esatto, è la ricomposizione, quindi anche lui finisce per accettare un'idea, non è che c'è un capo dello Stato, a parte le sue origini meridionali, che non rappresenta l'unità, quindi rispetta l'unità, anche Bossi si ferma, è giusto così. Se gli amici del Nord, classe dirigente, le persone che vivono al Nord, tanti milioni che sono andati al Nord, sono quelli che fanno da stimolo e danno una mano per quello che è possibile, e noi facciamo di tutto per superare le nostre ragioni di incertezza, benissimo, questa è la sfida che deve essere fatta. A me pare viverla così anche questa idea del federalismo come tale, altrimenti non ha senso, non ha senso. Grazie a Mastella. Io apprezzo che Mastella faccia rilevare a chi è in ascolto che in realtà poi Bossi dice, se mi chiama il capo dello Stato ci vado, perché questa è una maniera corretta, secondo me, sia pure nella distinzione netta di posizioni politiche che l'onorevole Mastella fa, tributando anche a Bossi però un ruolo di politico capace anche di misurare le parole, perché Bossi è diventato questo nel tempo. Però al contempo, quando Mastella dice, oh, se volete la sfida, io l'accetto la sfida, non c'è niente da tirarsi indietro, facciamo due nazioni, penso che questo farà discutere molto, perché forse nella rappresentanza del Sud quello che finora è mancato è stata questa anche capacità di rispondere dicendo, oh, ma guardate che alla peggio facciamo da soli, Non lo so se questo non sia un elemento su cui riflettere, ma invece quello che mi interessa sapere adesso è chiedere al professor Bellardelli. Da una parte, essendo questa la maniera con cui gli italiani, anche grazie alla Lega, in questi vent'anni guardano l'unità d'Italia, in maniera diversa da come si faceva fino a vent'anni fa, dall'altra, il revisionismo storiografico, la mia opinione è che abbia fatto bene, che sia naturale, perché fa parte della storiografia essere naturalmente revisionista, ma nella sua esperienza, professor Bellardelli, il revisionismo storiografico ha portato elementi ulteriori impropriamente, ma li ha portati a questo aumento di capacità critica fino al punto tale di non essere più in medesimazione all'unità d'Italia che si respira nelle opinioni degli italiani oggi rispetto a 25 anni fa? Lei che pensa? Ma guardi, io penso sostanzialmente di no, nel senso che gli elementi di revisionismo e di critica a ciò che è avvenuto nel 1860, che si sono riaffacciati negli ultimi anni, sono, pensiamo per esempio alla rivendicazione contro il Sud che sarebbe stato conquistato dai piemontesi, ai lager dei Savoia, e tutto il discorso sull'impoverimento di un'industria meridionale che se non ci fosse stata l'unificazione chissà dove sarebbe arrivata. Sono discorsi che io penso non abbiano molto fondamento, ma soprattutto sono discorsi che sono stati avanzati già nei decenni successivi al 1860. E certe posizioni sulla oggettiva, evidentissima marginalità, assenza del mondo cattolico e della Chiesa dal processo di unificazione, dal nuovo Stato unitario, che sono state riprese di recente certi ambienti, cioè CL fece nel meeting di Rimini una mostra su questo nei primi anni 2000, eccetera. Ma questa è una tematica, questa degli anni dopo il 1870, ampiamente diffusa, cioè, e così via. Non ci sono tanto elementi, cioè tutto il discorso sulla storia del risorgimento che non vi hanno mai raccontato, ma figuriamoci, insomma, sono piene le biblioteche, soprattutto la pubblicistica dell'Italia Unita, di questi temi. Quindi a me non stupisce tanto il ritorno di questi discorsi da 10, 15, 20 anni in qua, cioè il discorso di critica del risorgimento, eccetera, che ha anche una matrice, come è noto, democratica, di sinistra, Gramsci, eccetera. Stupisce il fatto che non si vede, diciamo, non si vede al centro, da parte del governo nazionale, eccetera, quali sono le forze pro risorgimento, diciamo così. Dal 1860 abbiamo avuto 150 anni di ricorrenti e sostanzialmente simili critiche al processo risorgimentale. Oggi la differenza vera mi pare che appunto non c'è. Forza Italia nasce ai suoi successi elettorali proprio presentandosi come partito del presente e del futuro, della modernità che guarda avanti e così via, per esempio, no? Cioè, e questo mi sembra. Quindi, professore, lei è dell'opinione che in realtà le polemiche espresse con il loro gesto di lasciare il comitato, espresse da alcune personalità rilevanti rispetto a come era stato organizzato ufficialmente il festeggiamento, hanno un fondamento? Perché lei dice non ci si arriva con un'idea forte, si trascura. No, assolutamente, diciamo, non ci dimentichiamo però che il pasticcio, se possiamo dire così, io penso che è stato un po' un pasticcio di organizzare per i 150 anni una piscina lì, un museo del cinema là e uno stadio di calcio in un altro posto ancora. Che il resto Gari della Loggia spesso sì, ha fatto gli elenchi di queste appunto, cose. Appunto, lo fece sul Corriere della Sera. Beh, però questo qui lo fece il governo Prodi a significare che è un problema che riguarda l'Italia di oggi, la classe politica, il fatto che per un'infinità di motivi, non ultimo secondo me anche il fatto di avere enfatizzato il Novecento, cioè nel Novecento è tutto ciò sostanzialmente che bisogna sapere, insomma, no? Le nostre origini sono nel Novecento, questo è stato il messaggio dell'avere dato lo spazio dell'ultimo anno delle superiori al Novecento, ma questo è solo uno dei motivi, per tutta una serie di motivi è fuori della sensibilità diffusa della classe politica, degli italiani. E a proposito, se posso dire, dei due ascoltatori, la cosa che stupisce è che sostanzialmente dicono anche delle cose molto sensate, no? Le differenze, insistono sulle differenze del paese. Appunto, il risorgimento era un'ipotesi che delle ovvie differenze evidentissime, macroscopiche, il tema del sud come Africa, figuriamoci, tutti i piemontesi che vanno sotto Napoli dicono appunto cose di questo genere, le dicono nel 1860, il problema è che 150 anni dopo ci sia una percezione analoga e sicuramente non minore, forse maggiore, di questa enorme differenza, ma il problema è perché era sbagliato quella cosa lì del 1860, il Regno delle Due Sicilie aveva, non aveva secondo me naturalmente, un grande futuro in Europa, oppure ciò che è stato fatto o non fatto nei 150 anni successivi, che ci lascia ancora a questo punto che parliamo 150 anni dopo della questione meridionale. E su questo interrogativo la interrompo pregandola di restare con noi, perché ci abbiamo il minuto obbligato e anzi in ritardo di informazione sulla circolazione stradale. 9.48 e 40 secondi, eccoci tornati in studio. Stiamo parlando delle polemiche che continuano a infiammare e dividere gli italiani e a poche ore dall'inizio, domani, delle celebrazioni ufficiali del 150esimo Unità in Italia. Piccolo inciso, è rimasto con noi il professor Berardelli. Agli ascoltatori che mi chiedono con gli sms: ma come, siamo ancora lì che ascoltiamo l'onorevole Mastella? Ascoltiamo l'onorevole Mastella, ripeto, non perché si tratti di sposare le posizioni dell'onorevole Mastella o di qua, ma l'onorevole Mastella, con la sua carriera politica e non farsi buttare da cavallo tutte le volte che lo hanno buttato giù, esprime esattamente un tipo di espressione identitaria, culturale e politica di intransigentismo nella rappresentanza di una certa idea del Sud. Quindi secondo me è proprio lui da ascoltare, tant'è che il titolo oggi provocatorio che avevamo dato era tra Lega e Mastella Cavour si ribella, ma non perché ne voglio fare un personaggio di colore, esattamente come secondo me è sbagliato guardare con colore e sufficienza alla Lega, io mi sforzo di fare lo stesso da sempre anche per l'onorevole Mastella, con uguale comprensione e rispetto, pur essendo un'espressione che naturalmente non mi appartiene, che è un Sud nel confronto del quale sono molto critico. Però il rispetto ci vuole, perché non sono cose che si improvvisano per decenni, quelle rappresentanze politiche, con la testa dura che ha l'onorevole Mastella, che non è seconda a quella di molti esponenti leghisti, per essere chiari. Allora, ancora un po' di ascoltatori, poi torniamo col professor Berardelli che ci fa la cortesia di restare con noi fino alla fine. Sentiamo innanzitutto Gabriele da Bologna. Prego Gabriele, breve però. Brevissimo, guardi, intanto mi premetto, io sono uno che vota Lega, però non ho questa... Vorrei semplicemente sottolineare che la concezione, diciamo, di questo rapporto non va più articolata, non va semplicemente, diciamo, definita in un modo un po' veramente superficiale. Non dimentichiamoci che il regno borbonico non era poi così retrogrado come ci hanno insegnato a scuola, non soltanto la famosa Napoli-Portici, la famosa ferrovia, ma aveva addirittura la seconda marina mercantile del Mediterraneo. Non dimentichiamoci che se andiamo al sud vediamo per esempio alla fine del 600 delle strade piene di bellissimi palazzi barocchi. In seguito a quello che fu col famoso terremoto ci fu questa ricostruzione. E questa ricostruzione, attenzione, in qualche modo implica non soltanto il denaro per costruirli, ma anche la cultura per costruirli, perché sono bellissimi. Fatta questa premessa, e oltretutto bisogna anche sapere e ricordarsi che Levis, il movimento di Antonio Finocchiaro, voleva la divisione dell'Italia, e noi forse in qualche modo lo sappiamo che la storia di Giuliano è molto complessa, ma ci servivano quei voti per battere il fronte nazionale, il fronte popolare. Il fronte popolare, detto questo, esatto, sì. L'assistenzialismo è un modo corruttivo per poter raccogliere consensi, quindi c'è una complicità fra il corruttore e chi si lascia corrompere, però c'è una complicità anche in queste politiche, diciamo, nazionale ha incentivato, diciamo, l'atteggiamento assistenzialistico del Sud. Grazie Gabriele, distinguiamo quindi e rendiamo giusto tributo alle differenze storiche, ai diversi livelli di sviluppo, alle responsabilità di diverse classi dirigenti, ma l'assistenzialismo al Sud è servito a lungo alla Prima Repubblica anche con un fine anticomunista, questo per sintetizzare estremamente l'atteggiamento che la classe dirigente, che ha dato molti soldi assistenzialisti al Sud, in cambio ne otteneva un voto di un certo tipo. Non ha tutti i torti secondo me Gabriele da Bologna. Sentiamo Walter d'Alessandria, breve, mi raccomando Walter. Buongiorno, cercherò di essere brevissimo. Io appartengo a una categoria che non viene presa in considerazione. Io sono un federalista, primo punto. Secondo, considero che all'interno di un raggio di 200 chilometri ci sia il mio movimento vitale, sociale, familiare, tutto. Quindi io scavalco lo Stato nazionale, guardo al mio territorio e guardo all'Europa. Io ho 35 anni e inviterei a considerare che c'è una generazione che dei nazionalismi, dei patriottismi, sinceramente non è tanto più che questo contenitore Italia non è fatto di tantissime belle cose, anzi, purtroppo le belle cose appartengono a prima dei 150 anni di storia dell'Italia. Quindi l'unità, lei dice, non è più un valore, l'unità, non lo è? No, sinceramente non mi interessa, io sono un idealista e un pragmatista anche, guardo al mio territorio, che sia del sud, ma che sia anche in Svezia, che sia anche in Turchia, io sono comunque un federalismo. Grazie Walter, questa è la visione glocal, per così dire, che ha con la globalizzazione un'importanza crescente e rilevante, è giusto richiamare anche questo punto di vista. Sentiamo Osvaldo da Brescia. Sì, brevemente anch'io per dire che sono del nord, voto centrodestra e non sono d'accordo su quello che dice la Lega, che non bisogna festeggiare l'Unità d'Italia. Tutti noi, se guardiamo i nostri ultimi 100 anni di storia, troveremo a Brescia, come in altre regioni del nord, un numero spropositato di volontari che hanno partecipato alle guerre di indipendenza per l'Unità d'Italia e hanno lasciato. Io faccio sempre una rituale polemica sorridendo sui 500 di Bergamo, per così dire, ecco, che spesso dico forse avessero avuto qualcos'altro da fare non saremmo qua, ma lo dico esattamente per richiamare quello che sta dicendo lei. Continui. Ho guardato, ho avuto la possibilità di leggere i registri del Museo del Risorgimento di Milano, invito tutti i lombardi ad andare a vedere e troveranno i loro antenati, perché non tutti sanno quanti sono stati i volontari che hanno dato il loro contributo per l'Unità d'Italia. E perciò, al di là delle polemiche, dei problemi che ci sono al sud, che sono tanti, eccetera, eccetera, l'importante è festeggiare l'Unità d'Italia, perché tutti noi, tutti i nostri avi, i nostri nonni hanno dato il sangue per questo. Grazie Osvaldo. Ancora Alberto da Vicenza, brevissimo, prego Alberto. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Gianni. Guardi, io volevo fare un paio di battute, ma se devo essere veloce dico solo questa cosa, che ho molti amici del sud, sono leghista, sono di Vicenza, ho molti amici del sud, ho addirittura persone meridionali. Il problema secondo me della Lega è che ha sempre usato dei termini molto forti per in termini di propaganda, sì. Però sì, poi quello che in realtà interessava alla Lega era ottenere dei risultati. Oggi quello che spaventa per quello che riguarda la Lega è il fatto che mentre prima usava esclusivamente dei toni molto forti e a livello propagandistico, adesso ha ottenuto i risultati, insomma, per così dire, ecco, quindi questo effettivamente è così. Professor Belardelli, c'è maniera, secondo lei, se lo aspetta nel corso di queste celebrazioni, che la grammatica e la sintassi di comune, che lei non ravvisa più nelle classi dirigenti italiane, ma che non c'è forse mai stata così forte, c'è maniera in questo 150esimo, dal suo punto di vista di storico, di osservatore, di avere qualche speranza che si rafforzi, oppure no, realisticamente? Io sono di questa seconda opinione, ma la sua? Temo anche io di essere d'accordo con lei, siccome insomma se si parla in pubblico bisogna sempre fare la parte di vedere un lumicino di ottimismo. Per esempio, io tenderei a dire che le cose dette dalla Lega, condivido un po' quello che lei ha detto, poi non sono, rispetto a cose dette in passato, non sono poi così assurde. Noi abbiamo, diciamo, un bravo, mi sembra, ministro dell'interno, che tipicamente per definizione deve personificare la dimensione statale nazionale, no, per lavoro. Bossi ha detto, appunto, se richiesto andrà alle manifestazioni, alle celebrazioni, quindi io non vedo tanto il problema della Lega, onestamente, mi sembra una cosa molto evidente all'apparenza. Nella sostanza c'è questa, molti degli ascoltatori, la maggioranza, quello che hanno detto telefonando, c'è proprio questo senso, appunto, di perdita e di, come ha detto Walter di Alessandria, insomma, no, della dimensione nazionale, che io però mi permetto di far notare che fino ad oggi, poi il futuro è nella mente di Giove, certo, come si diceva, la dimensione della democrazia ha coinciso con la dimensione della nazione, anche la dimensione, esatto, delle pensioni, che speriamo un giorno l'INPS ci pagherà a tutti. Credo che dobbiamo ringraziare il professor Belardelli, perché ci ha ricordato che i problemi dello Stato oggi sono essenzialmente quelli del contratto e della garanzia, che vale ancora a livello nazionale. Questo l'abbiamo sottovalutato, anche se il motto del battaglione, che mi è molto caro, il battaglione Susa degli Alpini, oggi trasformato, era Costa Calca Costa, Piemonte Val d'Aosta, e quindi queste sono le tradizioni con cui si faceva l'alza bandiera. Comunque, continuiamo a discutere rispettandoci dell'Unità d'Italia. Intanto l'appuntamento è a domani. Ho sforato, i ringraziamenti in regia e a Marco Turli sono dovuti, e intanto ci sentiamo domani. Appuntamento e linea al giornale radio. Mm.